Il campanello magico. Una volta, nel cuore della foresta, viveva una scimmia di nome Robby. Robby si rendeva sempre utile agli animali. Aiutava l'elefante a raccogliere la frutta fresca. Badava ai piccoli cerbiatti mentre mamma cervo era fuori ed aiutava il coniglio ad attraversare il fiume. La casa di Robby era un albero grande e forte che si ergeva proprio nel centro della foresta. Ogni animale sapeva che se Robby non si trovava da nessuna parte era sicuramente seduto sul suo albero a suonare il suo flauto. Questa era un'altra caratteristica di Robby. Suonava graziose melodie col suo flauto. Eccoti, Robby. La tartaruga ti stava cercando. Ha bisogno che l'aiuti con la sua giara. La sua giara? Bene, non vedevo l'ora che finisse la frase, ma immagino che intendesse giardino. Oh, sì, me ne ha parlato ieri. Andiamo. Dimmi una cosa. Perché suoni sempre il flauto proprio in quel punto? Non lo so, amo questo albero. Puoi pensare che io sia pazzo, ma sento che questo albero ascolta le mie canzoni. Oh, hai ragione. Cosa? Lo credi anche tu? No, volevo dire che hai ragione. Penso che tu sia pazzo. Ma Robby aveva ragione. L'albero ascoltava la sua musica. Questo era un segreto che nemmeno Robby conosceva. La musica aveva toccato lo spirito dell'albero, ascoltava attentamente la melodia ed era felice che Robby la suonasse ogni giorno. Un giorno, mentre Robby dormiva sull'albero, da sotto arrivava un terribile rumore. Cos'è quello? Terremoto! Terremoto! Chi è quest'uomo? Questo richiederà del tempo. Robby capì subito cosa stava succedendo. Balzò rapidamente giù. Ehi, cosa stai facendo? Perché stai tagliando questo albero? Il mio capo vorrebbe usarlo per la sua barca. Quest'albero ha una forte corteccia. No, non puoi tagliarlo. Davvero? E perché? Ascolta, ho trascorso molti giorni cercando di trovare un legno forte per la barca. E questo albero non è tuo. Non perdere tempo. Robby era una scimmia intelligente. Decise di spaventare il taglialegna. Ho provato a fermarti. Ma tu vuoi andare incontro al tuo destino, suppongo. Che cosa dovrebbe voler dire? Non lo sai? Lo spirito di un vecchio vive in questo albero. E qui da anni. Se tagli questo albero, dove andrà? Si attaccherà a te, naturalmente. Si attaccherà? Naturalmente, dal momento che sei tu quello che lo taglierà. Stai cercando di prendermi in giro? Sono più intelligente di quanto pensi, scimmia. Non ho intenzione di credere a questa storia. Vai via adesso! Robby voleva disperatamente salvare la sua casa. Non appena il taglialegna iniziò a tagliare, Robby salì sull'albero e andò dritto in cima. Si nascose tra le fitte foglie e cominciò a gridare. Oh! Oh! Come osi toccare la mia casa! Cosa? Chi è? Se distruggi la mia casa, dovrò venire a vivere con te. Non ti lascerò mai, umano. La scimmia aveva ragione. Non preoccuparti, umano. Saremo buoni amici. Che fretta hai, amico? E la tua barca? Proprio mentre Robby rideva del taglialegna, l'albero si animò. Robby! Sei davvero lo spirito di un vecchio? Quindi per tutto questo tempo ero seduto e dormivo sullo spirito di un vecchio? No, Robby, non sono lo spirito di un vecchio. Voglio dire, sono vecchio, ma sono lo spirito di quest'albero. La tua musica mi ha ridato la vita. Sei una scimmia saggia, Robby, e ti sono grato. Mi hai salvato dal taglialegna. Adesso, accettalo come regalo di ringraziamento. Un campanello? Non è un normale campanello. Questo è un campanello magico. Ogni volta che lo suonerai, il cielo ti darà magicamente frutta fresca da mangiare. Oh, wow! Questo aiuterà me e tutti gli altri animali nella foresta. Sì, lo farà. Ma ricorda, Robby, puoi suonare questo campanello solo una volta al giorno. Lo ricorderò. Grazie, albero! Robby corse a chiamare tutti i suoi amici nella foresta. Porcellino! Volpe! Ellie! Venite qui, tutti! Cosa succede, Robby? Stavo per fare il bagno. Robby raccontò tutto quanto. Gli animali erano scioccati. Non potevano credere che lo spirito dell'albero fosse diventato vivo. Hai fatto la cosa giusta, Robby. Siamo tutti molto orgogliosi di te. Gli umani devono pensarci due volte prima di abbattere gli alberi. Se la foresta dovesse sparire, non ci sarà più pioggia. È vero, ma io sono più entusiasta del campanello. Funziona? Dovremmo provarlo. Sì, dovremmo! Lasciate farci piovere frutta! Anche Robby era eccitato. Suonò il campanello e all'istante iniziò a piovere frutta. C'erano arance, pere, mele, ananas che cadevano dal cielo. Gli animali erano tutti molto felici. Volpe corse e portò un cestino per prendere i frutti. Elefante prese un ananas con sé e ne assaggiò un boccone, mentre Robby apriva semplicemente la bocca per mangiare una pera. Gli animali mangiarono pieni di gioia. Non c'è più bisogno di cercare frutta fresca. Era vero. Ogni giorno Robby suonava semplicemente il suo campanello magico e pioveva frutta. Questo andò avanti per giorni. Gli animali si fidavano di Robby ed erano molto contenti. Un pomeriggio, mentre Robby saltava da un albero all'altro, vide un grande albero di banane. Le gialle banane mature lo resero molto affamato, ma invece di arrampicarsi sull'albero e prendere quelle banane mature, pensò a qualcos'altro. Il campanello magico! Posso suonarlo e far cadere tutte le banane dal cielo. Così posso tenere queste per dopo. Dove sono i frutti? Cosa c'è che non va? Ha smesso di funzionare? Oh, aspetta, ho suonato il campanello stamattina. È possibile suonare il campanello solo una volta al giorno. Oh no, ma io sono così affamato. Proprio mentre Robby stava pensando a come fare, vide il suo amico, la volpe, che era stesa a terra. Oh, ehi, hai qualche banana avanzata per me? Ups, scusa, non ne ho. Ho mangiato tutto. Wow. Il cibo mi fa dormire. Ciao, Robby. Arrivederci. Sai cosa? Dovremmo provare a prendere un cocomero fresco domani. Mi manca l'anguria. Mi manca l'anguria. Beh, a me manca il cibo. Io sono colui che ha salvato l'albero dal taglialegna. Sono il legittimo proprietario del campanello magico e sono l'unico ad essere affamato. Non è giusto! Non è affatto giusto! Robby era così seccato che si dimenticò che poteva semplicemente salire sull'albero e prendere le banane da solo. Il mattino seguente, Robby si fermò vicino al suo albero e suonò il campanello. Immediatamente, molti frutti caddero dal cielo. Ne mangiò il più possibile, raccolse il resto, poi nascose tutti i frutti dietro l'albero. Robby, che cosa stai facendo? I tuoi amici devono essere affamati. Ma cosa devo fare se mi torna la fame? Questo è da egoista, Robby. C'è abbastanza frutta per tutti. Devi condividere. So cosa sto facendo. Mi hai dato quel campanello. Non è giusto che io senta la fame. Proprio in quel momento, tutti gli animali vennero da Robby per chiedere dei frutti. Mi dispiace, amici, ma il campanello non funziona. Ho suonato così tante volte. Vedete? Lo suonerò di nuovo. Robby suonò il campanello, ma poiché tutti i frutti erano già piovuti, naturalmente non accadde nulla. Gli animali furono tristi, ma nessuno dubitava della scimmia. Mentre se ne stavano per andare... Aspetta, sento odore di qualcosa di buono. Cosa c'è dietro l'albero, Robby? Ehi, venite qui, ci sono molti frutti. Robby li stava nascondendo da noi. Tutti gli animali andarono a vedere e rimasero scioccati. Robby, se non volevi condividere il cibo, avresti potuto dirlo. Non dovevi mentirci. Ti avrei dato felicemente la mia parte di cibo? L'avrei fatto anche io. Sai una cosa, amico mio? Perché non mangi tutta la frutta da solo da ora in poi? Non vogliamo nulla da te. Mentre Robby guardava i suoi amici andarsene, si rese conto del suo errore e cominciò a piangere. No! Aspettate! Non andatevene! Mi dispiace tanto! Ho agito egoisticamente! Ci sono abbastanza frutti per tutti noi! Se anche dovesse piovere in ogni momento, non sarebbe lo stesso se non potrei condividerli con voi! Vi prego, perdonatemi! Robby, va tutto bene, ti perdoniamo. Sei sempre stato bravo con noi. Sì, amico mio. Sì, non siamo più arrabbiati. Sì, possiamo mangiare ora. La fame era lenta. Tutti gli animali condivisero i frutti e mangiarono fino a riempirsi lo stomaco. Robby non usò mai più il campanello solo per se stesso. Fine.